Vi volevo ringraziare molto, nel senso che avete portato un contributo molto importante a Bologna. Vabbè, io cioè, mi sento di legarmi, sapete perché? Avete, secondo me, loro hanno analizzato due aspetti diversi delle loro città. Quindi voglio dire, sono uno la parte diciamo, economico-istituzionale, l'altro invece ha visto proprio questo fenomeno di attivismo fascista militante che ormai sta dilagando. Quindi ognuno ovviamente ha sottolineato gli aspetti diciamo, più eclatanti. Allora mi vorrei collegare, no? Sapete anche perché? Perché qui ad esempio a Bologna tra 15 giorni ci sono le elezioni. 2 settimane fa, sempre una festa qua di quartiere popolare, aperta, con gli stand, eccetera, si sono presentati candidati. Il candidato sindaco, noi siamo ancora in mano ai DS, diciamo in mano, perché ormai ci siamo nelle loro mani, nel senso che non abbiamo voce in capitolo, ma a parte quello, sì, al PD. E c'era quindi il candidato sindaco, il segretario di quartiere, quindi hanno fatto un bilancio di questi 5 anni. E ovviamente alla Berlusconi va tutto bene, cioè noi abbiamo fatto questo, nell'XM, cioè dove c'è il centro, l'XM, il centro sociale, stiamo costruendo l'alta velocità, cioè voglio dire, ormai il dialogo è tra sordi tra noi e le istituzioni, sia che siano di destra che siano di sinistra, perché noi continuiamo a denunciare, a vedere dei fenomeni che ci spaventano. A me sentire dire da dei ragazzi, voglio dire, in una festa ampi, voglio dire, le caserme rosse si chiamano così perché qui hanno trucidato delle persone, quindi voglio dire neanche un po' più di memoria storica e che siano i giovani di nuovo a denunciare che questi sono pericolosi, mi spaventa. Vuol dire che la storia, la memoria non c'è più, non insegna più niente. Mi fa piacere che siano dei giovani a farlo, perché vuol dire che comunque qualcosa è filtrato. Ma che il tessuto sociale, che le associazioni partigiane non vedano questi. Ma perché voglio dire, mi diceva, è vero, i centri. Perché colpiscono i giovani? Sono i centri sociali ad essere comunque, voglio dire, presi di mira. Sono i giovani ad essere presi di mira. Sono le lotte sociali, mi diceva, in concomitanza con la CGIL a dare fastidio. Quindi sono estremamente funzionali a creare un clima di paura, di repressione, di immobilismo. Cioè, quindi sono, non sono anche se sono 20 persone, voglio dire, però determinano delle reazioni a catena, la gente non si muove più, ha paura, cancella. Insomma, voglio dire, e secondo me queste voci, non so, adesso io non voglio dilungarmi più tanto, io spero che questo processo proprio di presa di coscienza di cosa sta avvenendo nelle nostre città e purtroppo le istituzioni che cosa ti hanno detto? Non è vero, non esiste, non è così, cioè io penso che proprio non ci sia più spazio, però che un tipo di cittadinanza attiva a questo punto proprio. In tutti i sensi, vabbè, un dossier, voglio dire, una denuncia, eccetera, che serve alla consapevolezza. Ma io direi anche qualcosa di più, cioè non lo so, perché veramente non se ne può più di vivere in città senza nessun tipo. Questa sì che non è sicurezza. Uno esce da un centro sociale viene accoltellato, cioè voglio dire, questa minano proprio la tua agibilità fisica. E lo stesso, insomma, secondo me queste denunce, non so, questi legami tra istituzioni, immobiliari, insomma, ormai veramente le nostre città sono, cioè, loro sono nel degrado, non il tessuto sociale, loro proprio stanno dando una prova, penso che peggio di così, e mi fa molto piacere che comunque si cominci a prendere in mano questi dossier, queste denunce, a portarle in piazza e secondo me direi proprio anche agendo. Grazie comunque.